Capitolo 7. Il divulgatore getta la maschera. L'anima. Era stato un soffio di voce. Gli occhi chiari di Platone perlustrarono l'aula con sguardi spietati. Mai come oggi, invocò il sommo Zeus che tutto compie. Ho dedicato parecchie pagine delle leggi all'anima, dopo averne parlato in tante altre opere. Dunque, quasi tutti corrono il rischio di non riconoscere la vera natura dell'anima e la sua proprietà, soprattutto in relazione alla sua genesi. Fece una pausa, fissando la faccia torva di Aristotele, poiché essa, l'anima, esiste sin dai primi tempi, essendo nata prima di tutti i corpi. L'ippocastano portava nell'aula il fernire delle cicale. È sufficientemente dimostrato che l'anima è anteriore a tutte le cose. L'anima si è generata prima del corpo, mentre il corpo per secondo, e in un momento successivo, e l'anima guida il corpo e questo, secondo natura, le obbedisce. Sacerdoti e sacerdotesse dicono che l'anima è immortale, che muore e rinasce, ma che mai essa va distrutta. L'anima, dunque, poiché è immortale, è più volte rinata, avendo veduto il mondo di qua e quello dell'Ade. In una parola, tutte quante le cose. Non c'è nulla che non abbia appreso. Quindi ogni conoscenza non è altro che un ricordo, perché l'anima immortale conosce tutte le idee. Platone dette inizio alla discussione con un indulgente segno della mano e il dibattito divenne serrato. Ognuno disse la sua, tranne io, ed ero grata di questo perché davvero non avevo freccia al mio arco. Comunque tutti accettavano la tesi di Platone, ovvero che l'anima rinasceva in altri corpi e che questo evento traumatico comportava la temporanea dimenticanza delle idee. L'anima, comunque, guidava tutte le cose che v'erano in cielo, in terra e in mare. Inevitabilmente la discussione scivolò di nuovo sugli dèi. Tutti gli esseri mortali, declamò Platone, sono proprietà degli dèi e il corpo è l'ostacolo della conoscenza. Proprio quando credevo di essermi salvata, Platone, guardandomi di sbieco, disse a mezza bocca: Credo che a tutti noi possano interessare le idee di Assiotea di Flionte. Ormai è chiaro che il suo pensiero è scaturito dai libri che lei doveva soltanto copiare e che invece ha anche letto. Purtroppo questa è una conseguenza di ciò che può accadere quando non c'è la guida di un maestro. Un maestro ti spinge alla verità, al bene. Mentre se si è soli dinanzi ai misteri del mondo, senza una guida, appunto, si possono intraprendere vie che portano all'anarchia, al caos, alla perdizione. Masticò saliva, mi guardò di sbieco. Ascoltare Assiotea di Fliunte è come sentire i concetti del pezzente di Sinope e di tutte le altre infernali creature di Abdera e di Cirene. Mi alzai. Non ero certa di riuscire a parlare in quell'atmosfera violenta. Ma mi feci forza. A Fliunte, mio padre, mi vendette come schiava. Mi marchiarono a fuoco. Poi a Corinto ricevetti frustate sulla schiena. Eppure, Platone, credimi, ho provato più dolore adesso ascoltando le tue parole. Le parole possono contenere una carica di violenza superiore a qualunque mezzo di tortura. Mentre tu parlavi in quel modo così spregiativo di me e dei filosofi a cui accennavi, perché tu li odi così tanto da rifiutare persino di pronunciarne il nome. Mentre tu sputavi vomito e disprezzo su Diogene, Anassagora, Aristippo, Antistene, Antifonte, Leucippo e Democrito. Tu sputavi sulla vita, Platone, su questa nostra piccola, unica e irripetibile vita. Per quanto mi sforzassi di mantenere la calma, la mia voce vibrava di scoramento. Io non so che ci sto a fare qui, ma le tue parole lo hanno chiarito. Il mio modo di ragionare ti ricorda quello dei cinici, dei razionalisti, degli atei, e tu hai bisogno di me e di loro per continuare a produrre il vomito verso quegli uomini. Perdonami per essere così sincera, ma questa situazione è di una tale gravità che non giova a nessuno essere educati o ipocriti. Non voglio entrare nel merito della discussione. Che potrei dirti a proposito dell'immortalità dell'anima? Che darei perché questo mio piccolo povero spirito, povera anima, chiamala come vuoi, non si spegnesse mai. Ma una cosa è certa, questo mio spirito si trova qui dentro, nel mio sangue, e quando questo mio sangue non scorrerà più in questo corpo, il mio spirito cesserà di vivere. Questo so io e questo sappiamo tutti. Se poi tu, Platone, hai il terrore della morte, non puoi pretendere che tutti vengano assaliti dalla stessa paura. C'è gente che ha coraggio. Io sono una di quelle creature che amano la vita. L'amo ogni mattina che mi sveglio e sono grata a Madre Natura che me l'ha fatta conoscere e vorrei che non finisse mai. Invece, finirà e io l'accetto, anche perché altro non mi resta da fare. Tu invece, Platone, sei invaso dal terrore di morire. Hai creato l'immortalità dell'anima. Ma contemporaneamente ti sei messo a sputare sul corpo, odiando i desideri, le passioni. In una parola, odiando la vita. Ma il fatto più grave è che non predichi questo solo per te davanti a uno specchio. No, vuoi che il tuo pensiero non solo sia conosciuto dal mondo intero, ma diventi legge. Che i popoli abbiano in odio la vita, questa vita, Platone, tutto quel poco che abbiamo. E che si innamorino di una fiaba macabra come la morte. Mi sforzai di non mettermi a piangere. Ho paura, Platone, per ciò che rappresentano i tuoi pensieri. Sono pensieri di morte, non di vita. Tremo perché accanto a te hai tanti uomini di indubbio valore, ma che ti assecondano, e questo significa che approvano le tue leggi, che le avvallano. Che tristezza, maestro, pensare alla grande occasione che questa accademia ha avuto. Qui si sono potute riunire le menti più geniali della storia dell'umanità e da qui poteva partire una nuova storia dell'uomo. Qui si poteva partire dalle particelle più piccole scoperte dagli abderiti, gli atomi, e tentare di scoprire i misteri della vita. E invece, Platone, tu vai bruciando i libri di questi grandi pensatori e ti metti a scrivere le favole dell'immortalità dell'anima. Abbandoni la vita per esaltare la morte. Tradisci il bene più prezioso che possiede l'uomo e che per un filosofo è il sommo bene, la ragione. Ebbene, tradisci la ragione per la superstizione. Platone, se io conoscessi un modo per fermarti, credimi, lo farei. Ma sono sola, sola. Piegai la schiena, mi sedetti stravolta. Attraverso un irrefrenabile velo di pianto mi resi conto che il maestro sollevava il capo con scatti nervosi verso Aristotele, guardandolo fissamente. Ma Aristotele rimase impassibile, fissandolo a sua volta negli occhi, senza battere ciglio. Era uno sguardo duro, impenetrabile. Dopo un tempo che mi sembrò interminabile, Platone si alzò in piedi e prese a trascinarsi verso l'uscita dell'aula, seguito da Filippo Dioppunte. Poi, solo dopo un lento scorrere della clessidra, da Aristotele. Eudosso mi venne accanto, facendomi cenno di seguirlo. Mi condusse nei giardini e dopo un lungo giro nei magazzini, l'antro dove erano gli scaffali e le cassapanche con i fogli di papiro. Una volta dentro, nell'umida penombra, il mio amico mi spinse a sedermi su uno scanno. Assiotea, forse Platone voleva che tu parlassi così, forse la sua intenzione era quella di provare la fedeltà di Aristotele, mia e di tutta l'Accademia. Ma soprattutto quella dello stagirita. Secondo me ha cominciato a perdere il suo allievo più prestigioso. Mi guardava con una luce folgorante negli occhi. Nella mia vita non ho mai visto un uomo che odiasse la donna come Aristotele. Eppure oggi tu, ragazza mia, lo hai scosso. Col tuo modo semplice, con la tua umanità, gli hai sferrato un bel pugno allo stomaco. Qualcosa accadrà, è inevitabile ormai. E respirò a fondo. Aspettiamo la grande processione delle Panatenee e poi, appena possibile, vorrei partire. Quando torna questo tuo benedetto uomo, la sua voce era ansiosa. In questi giorni, forse per la processione, Eudosso, non credi che sia giunto il momento di dirmi qualcosa riguardo al divulgatore? E gli afferrai un braccio scuotendolo. Scrollò la testa, un'ombra di inquietudine sul volto. Hai ragione. Ma tanto l'avevi capito. Il divulgatore sono io. Sono stato io a trovare le due copie del grande ordinamento, proprio qui dentro. E batté con una mano su una casapanca, producendo un suono cupo, lugubre. Probabilmente le aveva nascoste il guardiano fin da quando aveva fatto sparire Democrito, ma non aveva avuto il coraggio oppure l'ordine di bruciarle. Gli esemplari ce n'erano tre e non due, lo stesso giorno che presi le due copie. All'accademia giunse tuo padre. Rimasi stordita. Ripensai al suo sguardo indifferente quando mi aveva venduto come schiava, alla sua rabbia per aver perso i soldi della dote. Pensa, Siotea, lo stesso giorno. Io avevo avuto appena il tempo di dargli un'occhiata, di leggerne qualche pagina, ma quanto bastava per capire che Leucippo aveva scritto il libro più rivoluzionario nella storia dell'uomo. Quelle copie erano nascoste in un sottofondo della cassa, un sottofondo veramente difficile da scoprire. Sai cosa cercavo, amica mia? Il nido di quei puzzolenti pidocchietti. Sono un curioso per natura e ho studiato per parecchio tempo la vita degli insetti, soprattutto la loro organizzazione. Ma torniamo a noi. Subito pensai che potevo farne delle copie per rimettere le due che avevo prelevato al loro posto senza che nessuno se ne accorgesse. Così nascosi due esemplari nella vecchia borsa che portavo a tracolla. Chiamai Piramo nella sala delle mappe astronomiche, gli mostrai anche quella delle statuine e gli chiesi di fare cinque copie, pagandoli in anticipo, e bene anche. Promettendogli di dargli un premio se al suo ritorno avesse consegnato direttamente a me le copie più l'originale. E dato che stava recandosi da Ufione, lo pregai di consegnare la seconda copia al libraio. Sarei passato da lui il giorno dopo. In aggiunta, altre dracme d'argento. Strinse le labbra e mise un profondo respiro, un rumore strano. Ci bloccammo, forse un topo. Restammo in silenzio per parecchio tempo. Eudosso riprese a parlare, tendendo l'orecchio. Tuo padre non era uno stupido. Dovette capire che mi stavo servendo di lui per trafugare quelle copie al di fuori dell'Accademia e quasi sicuramente lesse il grande ordinamento. E questo ha segnato la sua fine. Tacque, gli occhi vigili. Perché noi due siamo ancora vivi, Eudosso? Perché quel libro lo abbiamo solo sfogliato, come pure Ofione. Questo mi porta a pensare che, oltre al testo rivoluzionario di Leucippo, probabilmente c'è anche un testo criptato, un segreto nel segreto. Eudosso, perché non facesti in tempo a leggere la copia che mio padre consegnò a Ofione? Perché la rubarono la sera stessa? Il guardiano dovette accorgersi di quello che era successo. Oppure mi aveva sentito parlare con Piramo e così andò di persona. Oppure mandò qualcuno, da Ofione, a riprendersi la copia. Come era accaduto altre volte, Ofione mi permise di restare nella libreria per tutta la notte per studiare. Frugai dappertutto, ma la copia era già sparita. L'altra, il guardiano, andò a prenderla a casa tua, a Fliunte, e la tua povera madre ci rimise la vita. Io invece il giorno dopo venni qui per controllare se c'erano doppi fondi nelle altre casapanche, ma inutilmente. Era invece sparita la terza copia del grande ordinamento che avevo lasciato. Il guardiano se l'era ripresa. La mente si affannava per dare una risposta a quell'enigma. Eudosso, io, tu e Ofione siamo ancora vivi perché non abbiamo agito. Se noi avessimo letto e decifrato il testo criptato nel grande ordinamento, avremmo fatto qualcosa. Dato che non abbiamo agito, vuol dire che non abbiamo compreso, che non siamo stati in grado di decifrare, oppure che non abbiamo avuto il tempo di leggere quel testo criptato. Non vorrei, Eudosso, che tutta questa storia di codici criptati e di statuine alla fine si rivelasse come una volgare caccia all'oro. Volgare caccia all'oro, ragazza mia. Se quel benedetto Orazio mantenesse la promessa, se fosse riuscito a trovare la statuetta di Cartagine, allora la mia mappa comincerebbe a sembrare possibile. E con l'oro ci puoi finanziare tutto: le navi, la ricerca di Atlantide, le accademie, le scuole per il popolo. La sua voce vibrava di speranza repressa. Assiotea, con l'oro puoi riscattare tutti gli schiavi che vuoi. Certo, amico mio, ma altri schiavi prenderebbero il loro posto. No, Eudosso, con l'oro non si possono risolvere tutti i problemi, né sanare tutte le ingiustizie di questo mondo spietato. Il canto d'un gallo ruppe il silenzio che ci circondava. Ci mettemmo in piedi. Eudosso aprì la cassapanca in cui avevo trovato il foglio con la bozza della misteriosa lettera. Mi mostrò l'ingegnoso sistema del doppio fondo, ormai vuoto. Poi consigliò di tornare nell'aula centrale dove ci attendevano tutti, tranne Platone e Aristotele. L'Astenia e Pseusippo ci vollero accanto a loro. La mia amica mi rimproverò dicendo che ero stata troppo dura, mentre Pseusippo cercava di consolarmi. La sua faccia era meno raggiante di altre volte. Mio zio non ti perdonerà. Per la prima volta in tanti anni il suo pupillo non lo ha sostenuto. Vedi, Assiotea, se mi rivolgo io contro Platone non fa niente, perché sono un filosofo da pochi oboli. Ma se lui perde l'appoggio di Aristotele, Senocrate o Eraclide, gli frana il terreno sotto i piedi. Gli occhi bluastri erano lacrimosi, il suo sguardo forzatamente indulgente. A me, all'Astenia, a Eudosso, fai tenerezza per la tua ingenuità, per la tua purezza. Ma la vita reale è spietata per tutti i ciclopi. E scuoteva il capo, stringendo rabbiosamente le labbra. Stavo per rispondergli quando ci si avvicinarono gli altri quattro. Il giovanissimo segretario di Platone, Filippo Diopunte, aveva la bocca fresca che gli tremava, gli occhi languidi erano arrossati. Ho la tua stessa età, Siotea, ma credo proprio che abbiano ragione il maestro Aristotele riguardo alla donna. Siete inferiori all'uomo, per natura. Tu non conosci la grandezza del pensiero di Platone, ne fai una lettura politica. Il maestro sta offrendo una speranza a tutto il genere umano e tu lo tratti come un impostore. Non ce la feci a reprimere la mia ribellione contro la menzogna. Scusami, Filippo, di questo non vorrei mai parlare, ma tu mi ci porti. Stiamo esaminando le leggi. Hai letto gli articoli in cui Platone condanna duramente l'omosessualità, prevedendo per chi la pratica addirittura la pena di morte? Eppure, lui per tutta la vita l'ha praticata. E non c'è stato che io sappia, ma tu puoi smentirmi, un solo allievo giovane che in 40 anni sia passato da questa accademia, che non abbia dovuto partecipare ai banchetti nella sala dei giovinetti e giacere col maestro, che gli piacesse oppure no, che si chiamasse Aristotele o Filippo Diopunte. Tremavo anch'io. Non avrei mai voluto parlare di questo, ma dovevo fare qualcosa per scuotere quegli uomini. Gli occhi di Filippo guizzarono di rabbia fremente. Fu l'altro giovane, il segretario di Aristotele, Teofrasto, a parlare, in modo secco, anche se i suoi bellissimi lineamenti erano alterati. Questa distinzione fra omosessuali oppure no, Platone è stato costretto a farla per il popolo, per la maledetta faccenda della riproduzione, in quanto solo voi donne potete darci dei figli. Ma noi uomini preferiamo i baci di un altro uomo a quelli vostri. Tutti gli uomini. Ma se seguissimo la nostra vera natura, finirebbe la nostra specie, e allora Platone si è visto costretto a questa menzogna per tener lontano quanto più possibile gli uomini dal massimo bene in questa vita. Un altro uomo. La voce morbida e velutata gli si spezzava sotto la violenza dei pensieri. Platone e Aristotele non hanno mai dovuto costringere un ragazzo a giacere con loro. Per un giovinetto giacere con quei geni è l'evento più bello della sua vita. Sappi lo scarto di natura. E liberò una smorfia sarcastica. Senocrate si intromise, facendomi educatamente segno di non intervenire. Cosa ti aspettavi, Assiotea? Ti permetti di prendere a calci il nostro maestro e pretendi che ce ne stiamo buoni? La colpa è dell'eccessiva bontà di Platone e di questo poveraccio del nipote. Sono uomini di nobile famiglia, di animo nobile, ed è a causa loro che tu sei qui. A creare scompiglio di idee, senza conoscere la filosofia, senza aver trascorso anni nella ricerca della verità. Piombi qui e ti metti a vomitare sentenze e calunnie, sicuramente in buona fede. Ma ciò non modifica lo stato di malessere e di tensione che sei venuta a creare da quando hai messo piede nell'Accademia. Dietro quegli occhi teneri, normalmente spauriti, apparve un velo duro come il marmo. Tu stai mettendo in pericolo la vita stessa di Platone, dell'Accademia e di tutti noi. Ma non lo conosci. Io ero così povero che non potevo pagare la tassa di straniero e fui fatto schiavo dalla città di Atene. Ma quando lo seppe il maestro, quando si accorse del mio amore per la filosofia e per la matematica, mi riscattò. La sua voce armoniosa era alterata. Tu pensi che qui si passi il tempo da un banchetto all'altro, dalla sala dei giovinetti a quella dei simposi? E qui c'è gente come il sottoscritto, che si è tagliuzzata il fallo con un coltello, bruciandolo, per evitare che si irrigidisca, per impedire di provare desideri carnali. Qui non si dà alla caccia né ai giovinetti né a loro, ma solo alla verità. E sulla faccia allungata apparve un'espressione che traboccava di compiacimento e di fierezza. Appena entrati dalla porta del Dipilon, Eudosso mi lasciò per mettersi alla ricerca di Raciu di Cirene, mentre io mi diressi verso il portico Pocile. Diogene non c'era. Allora mi immersi di nuovo nel clamore dell'agorà e mi recai al portico Basileus. Scrutavo all'interno, camminando sui gradini al di fuori del colonnato. Era gremito di uomini e mi parve di riconoscere Demostene, Eubulo e Focione. Del mio amico Diogene, però, nemmeno l'ombra. Mentre mi allontanavo dirigendomi verso la libreria di Ofione, sentii alle mie spalle una voce che mi chiamava. Feci appena in tempo a girarmi, che fu avvolta dal sorriso di Iperide. Accennai a fuggire e lui rimase sconcertato. I suoi occhi vividi si intristirono. Così orribile è stato, Siotea? Mi sentivo scombussolata, stavo andando da Ofione. Puoi accompagnarmi? E mi incamminai verso via dell'Areopago. Si mise al mio fianco. Dopo pochi passi percorsi fra le urla dei venditori, mi sfiorò la spalla con una mano, costringendomi a guardarlo. Così orribile! La voce gli tremava. Tu sei abituato a fare l'amore. Per me è stata la prima notte di passione. E mi sforzavo di non emozionarmi. Una meraviglia sconosciuta, Iperide. Mi feci forza, ma il mio amore vuole l'amore di Demos e non il tuo, di questo sono certa. L'eterna espressione di speranza che aleggiava nei suoi occhi si era incrinata. Ti scongiuro, liberami dal tuo desiderio. Basta che tu mi sfiori, che il mio sangue si sente attratto dal tuo. Ti voglio bene, Iperide, darei la vita per te. Ma Demos ha bisogno di me. Non ha avuto nulla dalla vita. La commozione mi stringeva il cuore. Prima di partire mi ha detto di non rinunciare a te. Il suo volto non riuscì a liberarsi delle ombre che l'avevano assalito. Ci proverò, Siotea. Era visibilmente emozionato anche lui. Fra pochi giorni, il 28 Ecatombeone, l'ultimo giorno delle Panatenee, durante la processione, al solito posto del ceramico, ci sarà l'assemblea del nostro Tiaso dei Copisti. Pensi che Demos sarà tornato? Solo la sua voce conservava ancora qualche traccia della forte emozione. Penso di sì. C'è qualche novità? Mi sforzai di rasserenarmi anch'io. Il Macedone sta preparando un attacco a Olinto. La guerra è vicina. Potrebbe essere una buona occasione per sentire che aria tira in mezzo agli schiavi. Si sforzava di parlarmi con naturalezza. Vieni comunque, con o senza Demos, mi raccomando. Peribea ed Ifilo verranno a prenderti a casa di Ofione per andare alla processione. Se puoi, in questi giorni, cerca di tastare il terreno nell'Accademia e nei riguardi del Macedone. Lo farò, Iperide, anche se la mia situazione in quel posto sta diventando insostenibile. È un covo di ipocriti con lo sguardo rivolto più agli dèi che ai problemi dell'uomo. Non mi piace per niente. Nel frattempo, eravamo giunti nello spiazzo dove c'era la libreria papiri. Fece per sfiorarmi una mano, ma si bloccò. Mi salutò e tornò verso i portici, senza riuscire a dissimulare un ultimo dolcissimo sguardo. Trascorsero parecchi giorni senza grandi sconvolgimenti. Demos ancora non tornava da Fliunte. All'Accademia Platone non presenziò nessuna lezione e così pure Aristotele. Pseusippo ci informò che lo zio non si sentiva molto bene e che aveva assoluto bisogno di qualche giorno di riposo. Ci mentre Aristotele era partito per un breve viaggio a Mitilene, nell'isola di Lesbo. Furono giorni dedicati alla matematica e all'astronomia, giorni in cui ebbi occasione di conoscere più a fondo le grandi capacità di Eudosso e di Eraclide. Durante le pause, l'Astenia mi fece visitare i lussureggianti giardini circondati dalla siepe altissima, la parte dedicata al ginnasio e la sala dove si tenevano rappresentazioni teatrali. Tutto era semplice, ma spazioso e luminoso. Alberi, piante e fiori dappertutto. Un giorno Eudosso mi fece frugare una volta ancora nella cassapanca puzzolente. Prelevai alcuni fogli di papiro con bozze e stralci di lettere d'amore. Lettere di alcuni filosofi dell'Accademia indirizzate ai giovinetti che vivevano nell'ala del ginnasio. Lettere di passione e di gelosia scritte dopo i banchetti. Con quei fogli nascosti nella mia borsa, lasciammo i giardini che il sole era già alto. Quando giungemmo all'agorà, ci trovammo nel bel mezzo dei cori e delle danze per la vigilia della chiusura delle Panatene. Sembrava che tutta la città si fosse riversata nella piazza, mentre l'attività del mercato era quasi nulla. Stavano per sfilare i cori dei maggioridemi di Atene. Era una cerimonia unica nel corso dell'intero anno. Eudosso voleva fermarsi ai bordi della via Panatenaica, ma si accorse della mia agitazione. Cercavo di non pensarci, ma il mio pensiero era ormai lì, sempre con Demos e Unai, perché non erano tornati. Temevo fosse accaduta loro qualche disgrazia. Il mio amico capì, mi accompagnò, sarebbe tornato dopo. Ci facemmo largo a fatica in mezzo alla folla, passammo accanto alla Casa delle Fontane. Mentre percorrevamo via dell'Areopago, tremavo. Pensavo a quando eravamo tornati dall'Aureo, alla mia apprensione, agli occhi sfuggenti di Ofione. Ecco la libreria circondata dagli ippocastani. Feci pochi passi, poi l'aria che risuonava dei canti lontani venne trafitta da un sibilo acuto, fortissimo, che si ripeté, che tornò a ripetersi ancora. Non era un uccello, non era un aulos, era un sibilo lungo, liberatorio. Dal ramo dell'albero accanto a noi, la figura fece un balzo agilissimo, piombò a terra, si rialzò e mentre prendeva a correre verso di noi, il ragazzino, dalla faccia bruciata dal sole, gridava: «Assiotea, mamma!» Giunse davanti a me, con i suoi occhioni neri traboccanti d'amore e di stupore. «Unai! Unai!» Lo accolsi tra le mie braccia, sul mio petto, gli baciavo il capo, la fronte, gli occhi. Sentivo il suo amore per me. Era davvero mio figlio. Unai, mamma, e lottava per separare il capo dai miei baci, per guardarmi in faccia, piangeva grondante d'amore. Mamma, sii felice, non ti sei scordata di me, allora gli dèi esistono, mamma. E si nascose tra le mie braccia. Fra le lacrime, sulla porta della libreria, intravidi Ofione e Demos. Prendemmo a muoverci verso di loro. Unai non voleva abbandonare la mia mano. Demos si diresse verso di noi. Lo abbracciai. Baciai la sua cicatrice sul collo e sulla guancia, gli sfiorai le labbra con un bacio, gli sussurrai che avevo cominciato a temere il peggio. I suoi occhi ardevano per l'emozione. Unai ci strattonava felice, ci separammo per assistere alla sua gioia. Riabbracciai Demos. Rallegrati, grazie, grazie a tutti e due. Senza di voi io non ci sarei qui, voglio vivere con voi due. Strinsi i miei uomini al cuore e sentivo la loro forza e il loro amore. Demos, Unai, questo è il giorno più bello della mia vita. La zazzera del ragazzo non c'era più. Aveva i capelli corti, ricci e corvini. Magrissimo, era cresciuto. E gli occhi, quegli occhi neri, vivaci e mansueti, che non si saziavano di guardarmi. La sua voce, un po' meno squillante e lievemente cavernosa. Il mio flauto, ce l'hai ancora? Allora hai pensato davvero a me? Quando Demos è venuto. Quando ha detto che voi mi davate la libertà, che voi volevate Unai con voi, Unai vostro figlio. Unai non ci credeva. Unai è una mamma, Unai ha un padre, Unai è libero. E scuoteva il capo, ancora incredulo, la felicità sul visetto bruciato dal sole. Demos salutò Eudosso, lo ringraziò per essermi stato accanto. Ofione ci chiamava, voleva la sua parte d'affetto, lo raggiungemmo. Siate felici. Come va ingrossandosi questa famiglia? E io che pensavo di passare la vecchiaia tutto solo. Mi ritrovo una figlia, un genero, addirittura un nipote. E ficcò la sua manona sul capo di Unai, il quale lo fissava con un certo timore. Eudosso propose al ragazzo d'andare con lui a vedere i cori e le danze, sempre se noi lo aspettavamo. Mio figlio non sapeva cosa fare, era incerto, mi stringeva forte la mano, mi fissava interrogativamente. Vai pure, Unai, noi non ci muoviamo da qui. Io e tuo padre ti aspettiamo nella libreria. Eudosso è il più caro dei nostri amici, è stato lui a riscattare Demos, puoi fidarti. È filosofo e scienziato, ma stagli vicino, non ti perdere. Le mie parole lo convinsero. Si decise a lasciare la mia mano, ma rifiutò quella che gli porgeva Eudosso. Mentre si incamminavano verso l'agorà, lo studioso gridò a Offione di recarsi allo Strategon in cerca di Coridemo e invitarlo alla libreria prima del tramonto. Offione glielo promise. Unai camminava accanto a Eudosso, alzando gli occhi senza perderlo di vista. Prima di girare per via dell'Areopago, si volse, lanciandoci uno sguardo intenso e interminabile. Poi si mise a correre verso di noi, volando con quelle gambette magre e le braccia protese verso di me. Mi investì con tutta la sua furia, col suo ansimare, col suo amore, scongiurandomi di non lasciarlo mai, giurandomi che avrebbe pensato lui a difendermi. Lui e Demos non avrebbero permesso che nessuno mi potesse più vendere come schiava. Poi, sforzandosi di assumere di nuovo l'atteggiamento da ometto serio e giudizioso, riprese a correre verso Eudosso, col flauto che gli caracollava sul petto.